Il mio corpo è sempre stato uno strumento. Me ne sono accorto ieri, quando ho sentito che il mio benessere non era uno stato della mente, era proprio una sensazione fisica. Perché noi non abbiamo un corpo, noi siamo un corpo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16 e 6 minuti, è un mercoledì qualunque, 29 giugno del 2011. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono ancora qui. Mi hanno sempre molto divertito le statistiche che parlano di sesso. Perché tutti i numeri correlati alla sessualità, visti da fuori, rendono una cosa molto ridicola. Come se fosse possibile misurare il piacere attraverso medie, no? Alti, bassi. Questo però è un po' il destino della statistica e quindi la prendo per come viene. Provate a mettere statistica sesso su Google. Quello che ne viene fuori più o meno è una cosa simile. Per la frequenza dei rapporti il divario appare immenso tra la vetta della classifica e la coda della classifica, conquistata dalla Francia con i suoi 137 rapporti annuali, la vetta, mentre l'ultimo posto è occupato dal Giappone, 46 ogni 365 giorni. L'Italia si colloca al 19° posto insieme al Canada, con una media di 108 rapporti, poco sopra alla media mondiale che è 103. La patria dei preliminari è il Regno Unito, con 22,5 minuti dedicati alle attività preparatorie. Pochi secondi di distanza seguono i tedeschi, irlandesi e spagnoli. In Italia la media è 20,1 minuti, appena sopra la media mondiale di 19,7. Siamo sempre appena media alla sopra mondiale. Mentre le coppie più sbrigative sono tutte asiatiche. Che mi fa ridere, non so perché. Non lo so il perché. A sorpresa, il record dei partner sessuali spetta invece alla Cina, una media di 19,3 partner, secondo in classifica il Brasile 15,2, terzo il Giappone, in Italia la media è di 10,5, ultimo il Vietnam. In questi ultimi giorni di programma, non so perché, sarà forse per il caldo, o sarà per la solitudine, mi sono come ricordato di avere un corpo. Me ne sono ricordato quando giocando a tennis, ieri, sotto un telone di plastica, stavo quasi per svenire a causa della disidratazione. Ma anche perché quando al tuo corpo manca qualcosa, il tuo corpo ti avverte, ti manda dei segnali. Oggi ho fatto la cosa che faccio tutti i giorni, cioè questa mattina ho scritto sul profilo Facebook del programma Matteo Caccia, io sono qui, di che cosa avrei voluto parlare durante la puntata di oggi. E quindi ho scritto una domanda molto semplice, proprio banale. A me perlomeno sembrava semplice e banale. Ed era, da quanto tempo non lo fate e perché? Io ero convinto che fosse scontato di cosa stessi parlando. Invece non è stato proprio così. Per molti evidentemente il richiamo del corpo non riguarda solo la sessualità. Adesso vi leggo che cosa mi è arrivato. Se però nel frattempo volete rispondere anche voi a questa domanda, da quanto tempo non lo fate e perché, io oggi sono qui. Quanto all'amore, sapete che si può dire. E non è la quantità dei vostri atti sessuali che conta, è la qualità. D'altronde, se la quantità è meno di una volta ogni 7-8 mesi, io una guardata me la farei dare. 800240024 349-238-6666. Che film era questo di Woody Allen, Viola? Amore e guerra, che è un film degli anni 70, certo. Si dice sempre così quando di un film di Woody Allen, quelli belli li faceva negli anni 70. Ripeto, per chiamare in diretta 800240024, 0024, una domanda molto semplice ai quali alcuni, come Claudio ad esempio, dice: da ieri sera abbiamo vinto 2-1, però credo che non avesse capito da quanto tempo non lo fate perché. Emilio: da stamattina 7,5 km, domani riposo, poi si ricomincia. Paolo: da settembre, quasi un anno, prima il lavoro, poi il mal di schiena, i motivi dell'astinenza dal calcetto. Ma questi o erano simpatici o non ci avevano proprio capito niente. Invece alla domanda da quanto tempo non lo fate perché, mi hanno risposto Nina, un accenno in marzo. Ora poi vorrei capire, Nina, si vedeva anche la manina che faceva, sai, proprio con, come se facesse il pollice e l'indice unite, un accenno in marzo e poi basta. Edoardo: un mese fa. Perché? Perché non bisogna mai dare niente per scontato. Questa non l'ho capita. Non ho capito cosa intende esattamente Edoardo. Ah, perché se lo fai tutti i giorni è scontato. Boh. Daniele: io non l'ho mai fatto e non ne ho voglia. Vabbè, diciamo, ognuno ha le sue. Fabio: 2 mesi. Basta qualcosa che vada male nella loro vita e tirano giù le saracinesche. Poi dicono che siano noi gli uomini egoisti. Lo facevo più spesso da single che ora. Luciana, 3 mesi da quando ho rotto con il mio ex e devo dire che non mi manca. Luigi, da domenica perché fa caldo. Carlitos, da ieri notte con il condizionatore a palla e la cognizione che già butta male. In primavera ha tutto un altro sapore. E poi ancora Roberto, non mi ricordo. E poi c'è questo messaggio che ha messo, devo dire, in allarme un po' tutta la redazione e un po' tutti le persone che frequentano il profilo Facebook del programma. Quando hanno letto il messaggio di Chiara, di cui non farò il cognome, anzi lo farò, Chiara Schiavon, perché è giusto dire le cose come stanno. Chiara ha scritto: qui mi sa che batto tutti. Mi togli un attimo la base, Paolo. 2 anni e mezzo. Perché nessuno mi vuole, inspiegabilmente. Allora, qui non è un'agenzia questa, non è neanche un bordello, però Chiara, abbiamo cercato di contattarti, ti ho scritto su Facebook un messaggio in cui dicevo ti va di raccontarmelo in diretta, il perché e i motivi. Non ha risposto. Quindi ognuno poi è artefice del proprio destino. Laura, ma da soli o con qualcuno? E va bene. 800 24 0024 349 238 6666. È proprio molto semplice, perché oggi si parla del corpo. Si parla di tutti i modi che noi abbiamo per stare bene con il nostro corpo. Mangiare, dormire, fare sport. L'ho scoperto ieri. Forse, ripeto, forse perché fa troppo caldo. O forse perché la distanza ormai è veramente troppa e anche il tempo che è passato dal primo giorno di distanza ormai sta diventando tanto. 800 24 0024 349 238 6666. È l'ultimo mercoledì di questo programma, che si è chiamato dai primi di settembre Io sono qui, e si chiamerà Io sono qui fino a venerdì. Oggi parliamo del corpo e cominciamo da qui. Insomma, ho scoperto che partono tutti tranne mia nonna. E allora sono stato un po' con lei l'altro giorno. Ho pensato anche che avrei dovuto farlo più spesso, anzi, che dovrei farlo più spesso, perché lei è ancora in forma. E poi guardarsi indietro dopo recriminare non serve a niente. Tornando verso Milano in macchina mi sono sentito bene. Che non significa che in altri momenti mi senta male, no. Non so come spiegare. Stare con mia nonna e parlare, rilassarmi, mi ha fatto proprio stare bene fisicamente. È strano da dire, però mentre guidavo ero come consapevole delle mie parti del corpo, che erano tutte appoggiate sul sedile della macchina. La schiena che regge la testa, le gambe appoggiate, le mani che stringevano al volante, ma anche gli occhi che guardavano la strada. Si sembra che sia appena uscito dal cielo sopra Berlino e che per la prima volta mi accorga di avere un corpo, però a volte non succede anche a voi qualcosa che semplicemente prima non avevate notato. Ecco, io mi sono accorto che non sono fatto solo di cervello, o di anima, chiamatela come volete, di emozioni, di ragione. No, no, io ero proprio carne, sangue, ossa, capelli, unghie, pelle. Ed è stato illuminante accorgersene. Che poi ovunque ti giri vedi cliniche per il corpo, foto di corpi, palestre per il corpo, e poi diete, sbiancamenti dentali, lampade, creme. È tutta roba che su di me ha avuto sempre un effetto contrario, che mi ha sempre tenuto lontano dal pensare veramente a me stesso come una cosa materiale. Quando vado a giocare a tennis o a calcio, io al mio corpo chiedo che obbedisca agli ordini, e quando non lo fa, o corre meno di quanto dovrebbe, o salta in ritardo, o si stanca, io me la prendo con lui, proprio come se fosse una cosa altra da me. E quando prendo una botta o un muscolo mi fa male, piglio della crema e ce la spalmo sopra, come farei se dovessi ungere una bistecca. Oppure peggio, prendo delle medicine antinfiammatorie, così il dolore mi darà meno fastidio. Il mio corpo è sempre stato uno strumento per me. Me ne sono accorto ieri, quando ho sentito che il mio benessere non era uno stato della mente, ma una sensazione fisica. E io non ho un corpo, io sono un corpo. E allora devo starci attento, e per premiarmi di questa nuova scoperta ho deciso di regalarmi qualche ora alle terme. Sono rimasto a Milano e non farò pubblicità, però c'è un posto che conoscevo, pieno di persone gentili che ti fanno massaggi, ti versano del tè, ti mettono della musichetta in sottofondo e lasciano che tu ti rilassi in sauna, poi nell'acqua di reazione, poi ancora nel bagno turco. Insomma, dove ti pare, basta che il tuo corpo ne abbia beneficio. Dopo la diretta ho pensato che cacciare panini, pizze e kebab dentro lo stomaco non è l'unico modo di dare benzina alla macchina. E che a volte la bocca e gli occhi vogliono la loro parte, soprattutto se si tratta di esperienze nuove. Quindi ho chiesto un consiglio a un amico e ho scelto un ristorante veramente buono. Si chiama Tano Passami l'Olio, che poi Tano è il mio ex vicino di casa, e anche se è milanista gli voglio bene comunque. È una coincidenza piacevole. Ecco, il suo ristorante è un'esperienza dei sensi. Ieri era il giorno dedicato anche al gusto e all'olfatto. Quindi mi sono presentati davanti i seguenti piatti. Cavoletti di Bruxelles ripiena di purè di topinambur, pistacchi e formaggella. Riso carnarolis cotto in brodo vegetale e latte in crema di riso allo zafferano, salsa di midollo e foie gras, crema di vino rosso. Pescatrice, tonno e gambero in vellutata di piselli e piselli caramellati e ciliegini glassati. 1000 foglie di frolla al cacao con mousse di cioccolato e mousse di basilico. Il tutto naturalmente accompagnato da una Coca-Cola, perché il bello dei posti veramente di classe è che puoi confessare di essere astemio e nessuno ti guarda male, neanche Tano. È una serata solitaria, ma non mi sento per niente solo. Mangio, saluto Tano e quando torno a casa sono felice. Mi siedo sulla poltrona, mi tolgo le scarpe muovendo le dita dei piedi un po' intorpidite. Provo una grandissima soddisfazione. Mi guardo intorno sorridendo e penso che adesso che tutti gli appetiti sono stati saziati, ce n'è ancora uno che manca all'appello. È lui. È il sesso. E subito penso a Natalie, che non c'è. Il desiderio sessuale è difficile da spiegare. Qualcuno dice che nasce come la fame, e lo si applica poi alla persona con cui abbiamo una relazione, se ce l'abbiamo. Se no, su chi ci sembra che vorremmo accanto. Altri invece dicono che si attivi solo in presenza di una persona o di una sollecitazione. Ecco, io da ieri sera sono della prima scuola. Ma questo mi illumina. Ecco un altro motivo per cui mi manca tanto Natalie. Avevo sottovalutato questo aspetto, l'avevo sempre rimosso pensando che sarei stato più forte di tutto. Ma il desiderio lo puoi mettere sotto il tappeto e lui trova il modo per venire fuori. Perché è giusto così. Ieri sera devo ammettere che, dopo una piccola ma significativa arrabbiatura tra me e me con Natalie e la sua bella idea di andare a Tbilisi, mi sono reso conto a un certo punto, è durato poco, però ci ho pensato che io forse lo avrei fatto anche con qualcun'altra. È stato molto veloce, È solo che certe cose non si comandano. Allora ho preso in mano il telefono, ho scorso la rubrica. Sono usciti dei nomi che non farò perché è gente che forse ascolta la trasmissione, anzi, spero. E per ognuno avevo dei motivi per cui avrei composto il numero e proposto un incontro improvviso, lì, ieri notte. Però c'erano anche un sacco di controindicazioni che vanno dal carattere alle complicazioni sentimentali, al brutto modo in cui con qualcuno ci eravamo lasciati, a certi difettucci che non avevo voglia di rivedere, ad alcune piccole manie a cui non volevo sottostare. Insomma, c'era sempre qualche pro e molti contro. Spengo il telefono e ripenso a Natalie. Lei ha solo dei pro. Nella mia mente, sia chiaro. Però ha solo dei pro. Ed è per questo che mi manca così tanto. E penso che non so se fare l'amore sia la cosa più bella che c'è, ma adesso veramente non me ne viene in mente un'altra. E allora penso che bisognerebbe farlo quanto più si può, con chi si vuole, per noi e per la persona con cui lo facciamo. E se lo si fa bene, nessuno si farà male. Poi alla fine, appena è passato quella specie di raptus momentaneo, ho chiuso la rubrica del cellulare, ho preso in mano il mio taccuino e l'ho girato. Ho scoperto un'altra frase che lei aveva scritto. Ho aperto una pagina e ho letto questo. Matteo, adesso so che partirò e starò via per tanto tempo. E c'è qualcosa di te che mi mancherà. E un po' mi vergogna a dirla. E io ho pensato che non c'era proprio niente di cui vergognarsi, che quella cosa lì sarebbe mancata anche a me. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Ah no, sono io. Eccomi, sì. Senti, vai in onda verso le 4 e qualcosa. Io però volevo chiederti un paio di cose. Ed è, primo, come ti è venuto in mente il nome Tano Passami l'Olio? Purtroppo non l'ho inventato io, l'ha inventato un amico che conosceva la mia passione per l'olio. Perché tu hai quanti oli in ristorante? Ma circa una cinquantina. Senti, invece, dimmi il tuo piatto, proprio il tuo, quello che hai inventato tu, che è la roba che quando... Ma io li ho inventati tutti io invento 60 piatti all'anno. Dimmene due, Tano. Te ne dico due. Ti dico il crottin de chèvre, formaggino Fappion, famosissimo. Sì. Crottin de chèvre in glassetta di zucchero, al profumo d'arancia e caldif, con aceto balsamico e tartufo. Magnifico. E questa roba l'hai inventata... Com'è che la inventi, queste cose? Questa l'ho inventata nel 95, però. Ed è tuttora in menù? È ancora tuttora. Questo no, è un piatto che non è mai entrato in menù, ma che però faccio sempre da 16 anni. Senti, invece la storia delle stelle, delle stellette, le stelline. La stella Michelin, dici? La stella. Come si prendono le stelle? E come si prende? Devi essere bravo, non è che non te la regalano, ti curano per qualche anno e poi... Ti tengono d'occhio, Tano. Esatto. Senti, facciamo così, visto che questa telefonata l'ho registrata, io la mando in onda, Tano, che dici? Assolutamente, va benissimo. Bravo Tano, grazie mille, ti mando un bacio. Poi ascoltati oggi, Un bacio. Ciao, un bacio a te. Ciao. Che sembra così, sembra sempre un po' scocciato Tano, ma è perché c'ha da fare, perché c'ha altro da fare. 800 24 00 24, 349 238 6666. Uno scenario impietoso, quello degli ascoltatori di questa radio, di questo programma, per quanto riguarda questo aspetto, la sessualità. Ho chiesto in prestito chiaramente il tema a Nicoletta Carbone, di solito si occupa lei di queste cose, ad essere benessere, però le ho chiesto, insomma, mi ha lasciato una liberatoria per occuparmene. Vi faccio un esempio. Ciao, sono Giorgio, sono 2 mesi che salto dopo 20 anni, 29 anni di matrimonio, tutto finito? Non lo so, te lo chiedi a me, non ho idea. Ciao, io batto Chiara, 3 anni, Mirko da Cagliari. Non lo faccio da 4 mesi, la mia ragazza mi ha lasciato dopo che per 3 anni l'abbiamo fatto in media 3 volte al giorno. Ale, cala l'angolo, va. 3 volte al giorno non sopravvivi una settimana. L'ultima volta 17 giorni fa, un uomo che non è il mio mi ha fatto scoprire una sessualità che avevo dimenticato o forse mai scoperto. Peccato per i nostri corpi, che io non sarò mai sua, lui mai mio. Ma che ti frega a questo punto? Orazio, da 1 anno mi sono separato e vivo per mia figlia di 7 anni. Ciao da Seregno. Orazio, secondo me anche per il bene di tua figlia di 7 anni fallo un pochettino più spesso. Abbiamo però forse la record man, record woman in questo caso, che è Gabriella dalla provincia di Padova. Ciao Gabriella. Ciao Matteo. Grazie per essere qui innanzitutto. Prego. Penso di essere proprio un record, almeno delle telefonate che ho sentito fino adesso. Senti, quanti anni hai tu, Gabriele, innanzitutto? Io ne ho 53. Ne hai 53. Esatto. E tu sostieni che siano 16 anni? Sostengo, lo affermo senza ombra di dubbio. Quindi da quanti avevi, quanti anni? 37 praticamente, sono 16 anni che mio marito è morto e non ho più trovato nessun uomo per cui valesse la pena rimettervi in gioco. Quindi, Gabriella, non è una scelta? No, non è una scelta. No, semplicemente è una questione di accadimenti. Esatto, di accadimenti. Però no, però è anche un po' una scelta, dai, perché in 16 anni, insomma, uno magari... No, no, perché, allora, scenda dei compromessi. Vabbè, se tu ti accontenti di quello che trovi, allora dico va bene, avrei potuto trovarne. Sta parlando a me? Stai parlando però... a me, Gabriella. Che cosa fai nella vita, Gabriella? Sono una casalinga. Siccome non ho trovato nessuno per cui valesse la pena rimettersi in gioco, sono ancora qualche aspetto. Però, Gabriella, a giudicare dal tono della voce, direi che è puramente maschilismo quando si dice che le donne sono nervose perché non lo fanno, perché tu invece mi sembri serena e divertita. Oh, sicuramente sì. Diciamo che lo prendo in ridere, perché se dovessi pensare seriamente sarebbe da, non so, da analisi forse, non lo so, dai. Gabriella, ti ringrazio molto e ti auguro buona fortuna. Un appello a voi maschietti, buttatevi più, fatevi più avanti, non lo so come dire. No, non ho capito. Non abbiate paura del sesso forte, che saremo noi in definitiva. Va bene, Gabriella è partita per la tangente. Gabriella, grazie mille. Prego, ciao buona giornata, ciao. Era bella su Gabriella, eh? 2 anni da quando ho mollato la ex Dino, 2 mesi lui mi ha lasciato dopo 9 anni. Caro Matteo, da un paio d'ore, ma solo perché dovevo andare a lavorare. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella foto di oggi siamo in un campo di papaveri. C'è una sterminata distesa di papaveri rossi e ci sono 3 persone di spalle su una bicicletta. Sono una mamma con i capelli biondi e i 2 figli. Dico una mamma, una donna, però è chiaramente la mamma con i 2 bambini. Sono di spalle e guardano verso l'orizzonte. Così a naso sono un po' in posa. Stefania Pelliccioli, 39 anni. Io e i miei bambini siamo nel campo davanti al mio condominio a Bergamo. Il rosso dei papaveri, la spensieratezza della bici, non so dove andremo, ma noi siamo qui. Da quanto tempo non lo fate? Daphne mi scrive sul profilo Facebook, Matteo Caccia, io sono qui. Non lo faccio da quando prendo le sbandate solo per le etero. È chiaramente omosessuale, Daphne. Tutte robe platoniche, che noia. Massimo una limonata, ma di più no. Perché poi dicono, tradiscono il compagno. Sì, vabbè, finisce così il messaggio. Sì, vabbè. E poi ancora, da venerdì, perché nel frattempo ho corso un'ultramaratona. Wow. Ma mi sa che il record lo batto io, mi scrive Riccardo. 4-5 anni. Ciao Matteo, da giovedì perché non siamo riusciti a trovarci da soli. E poi ancora, dal primo maggio. Cioè, dal primo maggio non lo faccio, ma non ci penso più. Riccardo da Torino. Mi sembra un po' presto per non pensarci più. Andiamo da Gianni, provincia di Milano. Pronto Gianni? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene. Senti, tu sei sposato, quanti anni hai? 47. Sei sposato da quanto? 6. Senti, 6 anni che sei sposato? Sì. Però sono 5 che non lo fate. Bravo. E come mai? E conviviamo da 21. Ma come mai però, Giovanni? C'è un motivo o semplicemente non c'è un motivo, che forse è ancora peggio? E forse è ancora peggio, nel senso che non c'è un motivo, penso lo stress della vita lavorativa. Che lavoro fai, Gianni? Che lavoro fai? Autotrasportatore. Ah, vabbè, allora è complicato. Alle 4:30, vado a letto alla 1, alle 2 di notte. E cosa fa tua moglie? E mia moglie ha un negozio. Però effettivamente così è un po' complicato se vai a letto all'1 di notte e ti alzi alle 4. Direi proprio di sì. Però in questi 5 anni una vacanza te la sarai fatta. Sì, una, giusto una. Ma... E lì ci siamo dedicati a tutt'altro. Siamo dedicati a paesaggio, a stare bene insieme, cosa di cui anche questo fa parte. Beh, di norma sì. Senti, di norma è come. Gianni, dove sei in questo momento? In questo momento sono a Biassono. Sei sul tuo camion? Sì. Arrivi da dove? Arrivo da Lecco. E cosa trasporti? Informatica. Come, scusami? Informatica, computer, stampanti. Va bene. Gianni, hai più la voce da notaio che non da autotrasportatore, ma deve essere per l'aereo probabilmente. Gianni, ti auguro in bocca al lupo, forte anche. Grazie. Ciao, grazie. Andiamo Riccardo dalla provincia di Treviso, uomini distrutti. Riccardo. Ciao, ciao Matteo. Sei a pezzi anche tu. Abbastanza, anche perché ho 4 ore di viaggio anch'io, che da Treviso sono arrivato a Torino e quindi... Che cosa fai, Riccardo? Sono un dirigente di una multinazionale. Che fa che cosa? Si occupa di finanza. Scusami? Finanza. Finanza, finanza, perfetto. Ma parliamo anche di cosa non fai, perché sono 12 mesi che non lo si fa. Sì, non lo si fa da 12 mesi, però l'ultima volta che ci abbiamo provato è stata domenica. E poi ovviamente uno dei due figli si è svegliato nel momento sbagliato e quindi è finita lì. Ma il motivo è sono i figli, quindi? Esatto, i 12 mesi è stato proprio quando abbiamo concepito l'ultimo figlio e quindi... Però se la gode, Riccardo. Ma Riccardo, ma i figli dormono in camera con voi? No. L'ultimo sì, ancora sì, perché è piccolino. Ah, vabbè, certo, perché c'ha 3 mesi. Quanti ne ha? 4? No, vabbè, poi dopo qualche... Ho detto concepito, ma dopo l'abbiamo fatto ancora per un po' quando la pancia era piccola. Ha 6 mesi mio figlio. Ah, ok, 6 mesi. Va bene, Riccardo, come vedi il futuro? Bene, bene, anche perché guarda, è diventato divertentissimo adesso, perché è tentare di trovare l'attimo urgente per farlo. Ma quindi ci provate almeno? Sì, sì, a provarci ci proviamo. Quanti anni hai, mi hai detto, Riccardo? Scusami, non me l'hai detto. 37. 37, in bocca al lupo forte anche a te. Ciao Riccardo, ciao, grazie. Ciao. E poi ci sono due ragazze che stanno studiando e non ho capito perché hanno fatto una specie di voto. Pronto Martina o Camilla? Pronto? Pronto, ciao. Ciao, tu chi sei, Martina o Camilla? Siamo qua insieme col viva voce. Ah, perfetto, che di solito è una roba che non si fa mai, però in questo caso si sente bene. Martina e Camilla, quanti anni avete? 22. E cosa state facendo voi? Allora, noi abbiamo frequentato l'Università di Lingue e Letterature Straniere e abbiamo finito gli esami, ci stiamo dedicando alla tesi, tra sì. Virgolette, chiaramente. E essendo che ce la stiamo già tirando da un bel po' di tempo, allora abbiamo deciso di fare questo voto per concentrare le nostre energie sullo studio. Ma scusatemi, ma è una specie di fioretto? Esatto. No, non ho capito. Ma è un fioretto perché speriamo che vada bene e quindi non lo faccio, oppure non lo faccio perché mi concentro sullo studio? Cioè, è una cosa... No, non lo faccio perché mi concentro sullo studio. Ah, quindi è una cosa logistica, non è una cosa paracattolica. No, anche... No, assolutamente no. No, perché dopo l'inverno di bagordi adesso cerchiamo di... Cioè, funziona un po' al contrario, no? Cioè, la gente che si diverte... In estate. Cioè, fatemi capire, in inverno la si dà via alla grande e invece in estate no? Esatto, almeno fino... Beh, io fino a luglio, dai, tempo che consegno la tesi. In cosa vi laureate? In lingue. Ah, giustamente. Una tesi su che cosa? Allora, io sto facendo una tesi di letteratura e cultura spagnola e sto analizzando 2 romanzi scritti da Pedro Almodóvar, quindi puoi anche immaginarti i temi. Ma perché scrive anche i romanzi Almodóvar? In giovinezza ho scritto negli anni 80 due romanzi che sono abbastanza sconosciuti. Un po', se ne sentiva la mancanza, effettivamente. E invece l'altra tesi che cos'è? Sulla musica occitana. Sulla musica occitana, benissimo. E quindi tra Almodóvar e musica occitana fino a luglio niente proprio. Esatto. Ma non siete fidanzate? Come? Non siete fidanzate? No. Non potevamo fare un torto così anche ai nostri fidanzati. Sentite, avete progetti per la festa di laurea? Sì, no, cioè l'unico progetto festa. No, va benissimo. Martina e Camilla, vi lascio allo studio. Ok. E ha un futuro migliore. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Andiamo Teresa, dalla provincia di Salerno. Ciao Matteo. Ciao Teresa, come stai? Ciao, bene. Senti, sono in ritardo per ascoltarti, sono qui a casa e dovrei essere al lavoro, ma per ascoltarti a Cipicchia. Che lavoro fai, Teresa? Ho il negozio, ma vicinissimo a casa. Che cosa vendi? Negozio di abbigliamento, hunter.it. Hai letto la mia pagina nel racconto che ti racconta qualche settimana fa. Va bene, adesso basta con le solette, altrimenti non ci fermiamo più. Dimmi invece, tu mi hai scritto di qualità da 2 mesi. Sono troppo abituata io a farlo di qualità, purtroppo, e allora siccome adesso invece è un periodo un po' così... Dimagra. Sì, un po' così... Sei un po' così tu, Teresa, sei un po' fatta così. Dimmi quanti anni hai. Siamo, perché c'ho quest'uomo da una vita. Ma sei sposata. Sono 33 anni che siamo insieme. Quindi... E quanti anni hai, Teresa, perdonami? 54. Devo 54. Tra poco li compirò un anno in più. Benissimo, allora ti faccio gli auguri per il tuo compleanno, ma auguri anche per l'estate, in cui di solito ci si diverte un po' di più. È vero, è vero, è vero. E via, dai, Teresa, un po' di periodo rilassante. Vai, ciao, vai a lavorare. Ciao, grazie. Ciao Matteo, ciao, ciao. Grazie ciao. Mille. Ciao a tutti, ciao. 349-238-6666. La prima volta a 36 anni, poi tante pause. Anche 2 anni senza, chissà perché. Forse paura, forse educazione cattolica. Stefano da Verona. Adesso vi faccio sentire una piccola cosa. Non è solo un racconto che vi racconta, questo è già un frammento, una scheggia di quello che accadrà a settembre. Nel 1990 avevo 10 anni ed ero felice. Tutti in famiglia lo eravamo. Vivevamo al Vomero. Il quartiere alto e raffinato di Napoli. Di ritorno dalle vacanze estive, però, quell'anno le cose cambiarono. E lo fecero improvvisamente, da un giorno all'altro. Le finanze della famiglia subirono un tracollo. L'attività di mio padre fallì, malamente. Ci aveva tenuto tutto nascosto per non farci preoccupare. Poi un giorno tornò a casa e disse che l'azienda chiudeva, che avrebbe dovuto pensare a qualcosa di nuovo e che per un po' la nostra vita sarebbe stata diversa. I primi mesi di scuola furono complicati, soprattutto perché io facevo finta che non fosse successo nulla, ma a casa tutto era cambiato. Il momento più difficile, poi, fu l'arrivo del Natale. Ma sai, da bambini forse ci si accorge di meno dei problemi legati ai soldi. Ricordo che per un paio d'anni non comprai cartelle né astucci nuovi e ereditai i libri di mio fratello. La cosa diventa un po' triste quando arrivò Natale, perché di solito a casa nostra c'erano dei gran festeggiamenti, mentre quella volta era chiaro che c'era ben poco da festeggiare. È una piccola storia, ormai l'avete capito, è una piccola storia di una pagina. In questa storia c'è dentro un pezzo di voi, che è una storia che racconta di voi, della vostra vita, di chi siete. Noi la pigliamo, la smontiamo, la rimontiamo, la mettiamo insieme, vi chiamiamo, sentiamo la vostra voce, guardiamo le vostre foto, i vostri video e ci facciamo una puntata. Così per tutto l'anno. Ogni puntata una storia diversa, ogni storia diversa una vita. Grazie a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni, a Stefano D'Andrea e a Paolino Corleoni. Oggi si è parlato di molto, soprattutto del corpo e soprattutto di sesso. Fabio, a proposito di un argomento che noi non abbiamo toccato, perché noi non è che proprio certe robe diciamo, lo tocchiamo alla fine. A proposito del sesso senza amore, non lo faccio dall'agosto del 2004. Era la prima volta che lo facevo senza amore, aspettandomi meraviglie. Fu un disastro, promisi mai più senza l'amore. Forse Fabio, semplicemente, dovevi cercartene un'altra. Vorrei... Piero, che scrive l'ultimo messaggio che si riferisce a Martina e a Camilla, vorrei partecipare alla festa di laurea delle due ragazze. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?